America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, si apre una settimana delicata sul piano della finanza e dell'economia in America, perché il tentativo di rally innescato da una stagione di profitti che si prospettava relativamente favorevole, diciamo una decina di giorni fa, si è poi arrestato prima del nascere la settimana scorsa, quando ha prevalso di nuovo un sentimento di prudenza in attesa per l'economia, che resta debole e con prospettive di un piccolo avvitamento del tasso di crescita da qui alla fine dell'anno. Sul fronte occupazione non abbiamo avuto notizie particolarmente positive di nuovo, dunque direi che tra la spinta del toro e la frenata dell'orso, siamo un po' in una posizione di equilibrio, ma in qualche modo c'è l'orso che continua a prevalere. Devo dire che in generale l'umore che ho raccolto, in particolare nel fine settimana passato, un fine settimana di estate calda, non è dei più ottimisti. Vi racconto di un party agli Hamptons, la località vacanziera dei newyorkesi, bene, banchieri, imprenditori, quelli che ho visto sono stati in generale molto prudenti. Per esempio mi è capitato di incontrare George Soros, non è che veda un grande sviluppo sul fronte dell'economia. Il colpo finale però è giunto da Nouriel Roubini, proprio lui. Insomma, questo party dove c'era una gran quantità di gente, party devo dire molto variopinto, tutti in giacche colorate, in pantaloni colorati, c'era anche Nouriel, l'economista, il Dr. Doom, che quando si tratta di fare un pronostico, diciamo, non esattamente incoraggiante, lui non delude mai. L'ho provocato così, dicendogli, e premetto non era vero, ma dicendogli che le persone intorno a noi con cui avevo parlato, banchieri, imprenditori, erano alquanto ottimisti per il medio termine. E lui mi dice: ah sì? Non la pensano come me. L'ha detto, devo dire, con una certa sicurezza, e mi ha dato il quadro. Il suo ragionamento è semplice: l'economia non ce la fa oggi a produrre quel tasso di crescita sostenibile necessario a rimettere un po' tutto in movimento. E quindi già in queste ultime settimane, prima ancora che il pacchetto di stimoli vada a terminare a settembre, e parliamo in quel caso di una fuga da 100 miliardi di dollari al trimestre, già oggi si vedono questi sintomi di debolezza. Dunque immaginiamo cosa succederà quando il pacchetto di stimolo si esaurisce. E direi che uno degli aspetti importanti, al di là delle cose più tecniche di cui ci parla Roubini, riguarda secondo me la questione della fiducia. La fiducia in un futuro sicuro da parte dell'americano medio, in un'iniezione di ottimismo. E ecco, questo ovviamente non può che venire dall'amministrazione. Vi ho parlato nelle puntate precedenti di come il business fosse contrario all'amministrazione, contrario perché sente che Barack Obama e la Casa Bianca sono anti-business. Eppure in questa situazione l'amministrazione anche su questo punto sembra un po', secondo me, fare orecchio da mercante. Vediamo perché. La cosa di cui voglio parlarvi riguarda la nomina di un personaggio importante a Washington. Secretary Geithner never wavered in his support for the Consumer Financial Protection Agency, and I will always be grateful for that. E dunque vi dicevo che l'amministrazione sembra fare orecchio da mercante. C'è una situazione politica, oltre che economica, piuttosto delicata. Ci sono le elezioni di novembre in arrivo, c'è un sentimento anti-business nei confronti Obama, e ormai abbiamo una battaglia durissima fra due anime dell'amministrazione, quella di sinistra e quella centrista. Ecco, la battaglia si è focalizzata negli ultimi giorni sul nome di Elizabeth Warren, professore a Harvard, guida del comitato di controllo del TARP, lo ricordo, il fondo per aiutare le banche istituite durante la crisi. E questa signora Warren è un po' l'anima militante dell'ala sinistra del partito. Il problema è che la signora Warren è diventata improvvisamente candidato di punta per guidare il nuovo ufficio per la protezione dei consumatori, quell'ufficio formato da Barack Obama nel contesto della legge per la riforma del sistema finanziario. Un ufficio che ha una storia, è stato concettualmente, intanto occorre dirlo, ideato e spinto nelle primissime ore, addirittura nel 2007, proprio dalla Warren. Il presidente Barack Obama con la Warren va d'accordissimo e quindi ha subito sottoscritto la sua idea e ha chiarito sempre che la linea del PIAVE in materia di concessione e compromessi, quando si doveva discutere di riforma del sistema finanziario, si sarebbe fermata proprio lì, e cioè su questo nuovo ufficio che per lui era molto importante, era addirittura irrinunciabile. Il problema qual è? Che questo ufficio preoccupa molto le banche, preoccupa molto le grandi imprese, le piccole imprese, perché nel momento in cui si istituisce un controllo sull'erogazione del credito ai consumatori, beh, si va a toccare uno dei tasti più delicati per la sostenibilità dell'economia americana, che poggia per due terzi proprio sulla domanda al consumo. E dunque i banchieri erano contrari a questa agenzia, a questo ufficio per la protezione dei consumatori. Poi alla fine in qualche modo hanno dovuto cedere, con una speranza che alla guida di questa agenzia, di questo nuovo ufficio, ci fosse una persona illuminata. Ecco, non è la Warren, questo preoccupa molto, al punto che lo stesso segretario al tesoro Tim Geithner si è schierato contro di lei. I due comunque già non andavano d'accordo prima, ma insomma vi racconto tutto questo per darvi un'idea di quanto complessa, difficile sia la situazione all'interno della stessa amministrazione. Ecco, dove si schiererà Obama? Beh, Obama è a sinistra, Obama è con la Warren dal punto di vista del cuore, però sappiamo che questo presidente è anche molto pragmatico, e quindi se davvero alla fine giungerà la conclusione che la nomina della Warren potrà continuare a danneggiarlo, beh, io non ho dubbi che alla fine sceglierà qualcun altro. E dunque non solo Wall Street, ma l'intera corporate America starà a guardare questa decisione, e nel momento in cui si materializzerà, beh, allora si deciderà se Barack Obama è davvero anti-business, come dicono molti, oppure è più aperto ad appoggiare il settore privato. Ecco, un altro elemento che potrebbe aiutare invece a risollevare l'umore attorno all'amministrazione è l'apparente successo sul fronte della Louisiana. Il buco della British Petroleum è stato tappato, la marea nera c'è sempre, si cerca di fare il possibile per limitarne l'impatto, però c'è stato in effetti un progresso. Ecco, a questo punto però ci si domanda qual è la portata del danno ecologico, e che continua a essere enorme. Vi anticipo una curiosità: che per la pulizia competeranno molte aziende italiane. Tutto questo ovviamente ci porta all'ultimo punto: come si sviluppa, alla luce di quello che vi ho detto, la battaglia politica per novembre? Vediamo un pochettino la situazione. Allora, vi ho detto che la borsa è prudente, l'economia è incerta. Obama sembra spostarsi con la nomina della Warren, se davvero andrà avanti, a sinistra. Il danno ecologico prodotto dalla marea nera è più forte del previsto. Ecco perché il Wall Street Journal, in un titolo di testata di questa mattina, dice a caratteri cubitali che i democratici potrebbero perdere il Senato. Oggi le corse aperte sono circa una quindicina e i repubblicani dovrebbero riuscire a conquistare 10 seggi per farcela e passare dai 59 di maggioranza dei democratici a un equilibrio di 51-49, dunque 51 con una maggioranza repubblicana. Impresa molto difficile, ma da ieri sembra possibile. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. C'è stato ieri un concerto fantastico dei Caribou a Governor's Island, l'isolotta a un chilometro a sud di Manhattan, vicino alla Statua della Libertà, dove vi feci già un reportage quando ci fu la partita di polo. Questi Caribou sono una band elettronica canadese e hanno presentato un nuovo single al pubblico americano. Ve lo presento, Odessa. Scared to did say, did he know half of the time you drove her away? Saving up for, didn't she go? Didn't she stand up for everything she chose? Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.